coppia. Miti e verità dello sport. Di Dario Ricci. Non c'è più tempo. Finisce qui. Il Bologna torna in Serie A dopo l'1-1 e lo 0-0 dell'andata. Dopo un solo anno di purgatorio, il Bologna è tornato così in Serie A. Dopo un sofferto pareggio col Pescara sotto gli occhi del presidente americano del club, Joe Tacopina, e di tanti tifosi illustri come Alberto Tomba e Gianni Morandi. Obiettivo ora l'ottavo scudetto, ha dichiarato Tacopina con un po' di enfasi, certo, ma anche ricordando cosa rappresenta il Bologna nel nostro calcio. Una squadra capace di vincere 7 tricolori e 2 Coppe Italia. E allora, per salutare il ritorno del rossoblù nella massima serie, riviviamo oggi un'altra giornata memorabile della storia dei felsini. Torniamo a Roma, Stadio Olimpico, nel torrido pomeriggio del 7 giugno 1964. Gentili telespettatori, buonasera, qui Roma, Stadio Olimpico, teatro di un nuovo eccezionale avvenimento nella storia del campionato italiano a girone unico. Abbiamo infatti per la prima volta uno spareggio per la conquista dello scudetto e si fronteggiano in tale circostanza Bologna e Internazionale, che hanno entrambi chiuso il campionato con 54 punti ciascuno in classifica. Sì, sarebbe stato quello spareggio ad assegnare il tricolore. Avversaria del Bologna, l'Inter di Elenio Herrera, fresca campione d'Europa dopo aver sconfitto il Benfica del grande Eusebio. E a funestare la vigilia dei rossoblù un lutto doloroso e inaspettato. Si onora in pari tempo la memoria di Renato Dallara, mancato alla stima e all'affetto degli sportivi italiani mercoledì scorso in Milano, dopo essere stato per 30 anni consecutivi l'impareggiabile presidente del Bologna. Così il portiere William Negri ricorda la morte di Dallara. Ma direi che è stata una mazzata proprio, perché dovere... giocare una partita senza il presidente e poi anche deceduto così vicino alla partita poteva avere dei risvolti negativi, invece penso che abbia dato un'ulteriore carica per poter commemorare e onorare il presidente. Più forte del dolore quel Bologna, così come era stato più forte di uno scandalo doping che, nel corso del campionato, aveva coinvolto 5 suoi giocatori, poi però scagionati dalle controanalisi. Al fischio del leggendario concetto Lobello, i felsini, magistralmente timonati dalla panchina da Fulvio Bernardini, sembrano subito più in palla. L'Inter appare appagata dal trionfo europeo, che però l'ha anche stancata, e la fatica si fa sentire nel torrido pomeriggio romano. Alla mezz'ora, su punizione, la gara si sblocca. A Bulgarelli l'incarico del tiro, mentre si avvicina anche Pavinato ed è vicino al pallone anche Perani. Tira Bulgarelli, tocca per Fogli. Rete, ha segnato Fogli, Bologna 1, Internazionale 0. 30° di gara. Non impeccabile nell'occasione il portiere interista Sarti, ammette ancora oggi Fogli. Ma il gol è stato, come avete visto, da una punizione fatta su Adler, un po' di mischia lì, la tiro io, poi è venuto fuori questo gol con un tiro direi non veramente eccezionale e forte, però quando la palla va dentro, forte o piano, è sempre tirato alla perfezione. Probabilmente devo dire questo, che Sarti, vedendo Bulgarelli sulla palla e io che mi preparavo, probabilmente lui aspettava che gliela mettessero sopra la barriera a foglia morta, e lui si è spostato un attimo e nel momento che io tiravo, lui quando si è buttato in terra, la palla era già passata. Il raddoppio del danese Harald Nielsen mette il sigillo al tricolore bolognese. Insiste il Bologna nella sua azione offensiva. Manovra Fogli, si piazza Nielsen, riceve. Rete, raddoppio. Stupendo gol. 39° del secondo tempo, ha raddoppiato Nielsen, lanciato questa volta da Fogli. Bologna 2, Internazionale 0. Si abbracciano festanti e commossi i giocatori rosso-blu, i quali hanno praticamente vinto da questo momento il loro 7° scudetto. Dopo quella di Carosio, la cronaca del protagonista in persona. Eravamo sull'1-0, la Inter doveva sforzare, doveva andare avanti se dovevano avere qualche possibilità di vincere e già mi era nato una o due occasioni quando loro tentavano di sforzare, però è un momento ho visto che mancavano qualcuno in difesa e noi della difesa stavano venendo fuori con il pallone e io mi sono messo molto in movimento e sono riuscito a fare di traverso per la linea in difesa e quando ho ricevuto il pallone lì, insomma, era abbastanza facile metterlo dentro. L'ultimo minuto della sfida nella stentorea cronaca di Nicolò Caroso. Tempo scaduto, o meglio fase di recupero. Già i guardialine consultano i loro cronometri. Quello del lato della tribuna Tevere ha agitato la bandiera. L'arbitro consacra in questo momento il Bologna campione d'Italia. Grande momento di emozione, congratulazione da parte dei giocatori interisti ai vincitori ed ecco inquadrato Bernardini, vinto, commosso dalla fatica, dall'emozione. Proprio Fulvio Bernardini, calciatore straordinario, altrettanto vincente allenatore, già campione d'Italia con la Fiorentina, era stato il grande regista di quel successo, come ricorda Marino Perani, ala dei rossoblù. Ma direi che la partita è stata impostata bene sotto tutti i profili. Intanto la preparazione, senza dare troppa importanza a quell'avvenimento che se no magari la reazione non era del tutto positiva. Bernardini ha impostato la cosa sul fattore psicologico della tranquillità e di conseguenza non c'era bisogno di preparazioni particolari atletiche a fine campionato, c'era bisogno di essere consapevoli delle proprie forze e noi lo eravamo, quindi abbiamo affrontato l'Inter appena laureato, diciamo, campione d'Europa con la massima concentrazione ma però anche con la dovuta accortezza e tranquillità. Direi che tutto il risultato perfetto anche sul profilo tattico e questo va detto per dar merito al nostro allenatore Bernardini che non è mai stato un tattico perché lui preferiva fare il proprio gioco e invece quella partita la impostò, visto che mancava Pascuti infortunato, sotto il profilo del contenimento e del contropiede, praticamente un po' come si usa adesso, quindi un gioco moderno già allora che adesso è ancora attuale. Noi controllavamo bene la loro squadra, hanno fatto quasi nessun tiro in porta e a nostra volta invece ci siamo riproposti in varie occasioni fino ad ottenere il vantaggio e la vittoria. Grande tecnico, ma anche uomo d'altri tempi, Bernardini, sottolinea ancora Perani. L'espressione che mi viene subito in mente era un signore, in tutti i sensi. Signore come allenatore, signore come persona, faceva capire a tutti quello che voleva nelle dovute maniere, senza mai alzare la voce, ma però con dei concetti ben precisi che riuscivamo ad assimilare. E quindi nella maniera più semplice otteneva il massimo risultato anche nei momenti più difficili. L'aveva costruito passo dopo passo, pezzo dopo pezzo, quello squadrone, Bernardini. Come ricordava il compianto Helmut Haller, trequartista ed ala che vincerà poi altri due titoli con la Juventus. Quella stagione 63 abbiamo giocato molto meglio che 64. Doveva venire scudetto già un anno prima, però 64 l'abbiamo giocato veramente, come si dice, così si gioca in paradiso. Meritavo anche. Gli era entrata nel cuore Bologna, a Haller. Tanto fantasioso in campo quanto creativo animatore anche dello spogliatoio. La città di Bologna è uguale come mia città è Augsburg. Augsburg è stato fondato con i romani, io mi ho trovato subito con quelle strade strette e poi la gente mi ha accolto sempre con tanto cuore. Io sono stato sempre un giocatore che doveva ridere, deve fare scherzare, se no quando è andato triste in campo non giocavo bene. La conferma arriva da questo aneddoto che ci racconta Perani. Noi la domenica andavamo in ritiro a Riolo Terme e dal sabato la domenica ritornavamo per andare allo stadio alla partita e sul pullman c'era un particolare che era simpatico, Helmut Haller, che secondo me è un gran fuoriclasse, penso anche valutando i giocatori di adesso, da fondo pullman mi chiamava sempre, io ero in principio seduto, mi chiamava, mi faceva segno con la mano di andare giù da lui e tirava fuori una bottiglia di champagne già stappata per non far sentire il botto. due bicchieri, brindavamo alla vittoria prima di giocare, praticamente per capire come eravamo sicuri dei nostri mezzi e della partita che andavamo affrontando. Un gruppo di amici dai piedi fatati che regalarono a una città un sogno tricolore. Così Harald Nilsen spiega il segreto di quella squadra e del suo leggendario allenatore. Noi giocavamo con libertà e questo libertà, questo ce l'avamo anche fuori campo come persone. Eravamo un gruppo di giovani che ci siamo sviluppati con Bernardini, ci siamo sviluppati sotto di lui. E con lui era un uomo molto intelligente e lui sapeva tirare fuori il meglio di ogni giocatore, così noi ci siamo sviluppati assieme e abbiamo creato questo assieme. Naturalmente quando si comincia a creare in un calcio che noi stiamo praticando e giocando, allora riusciamo anche a digrandire. Davvero bello rivivere la parabola di quel Bologna campione d'Italia. Allora, in bocca al lupo quindi ai rossoblù, ma anche alle altre due promosse in Serie A, Carpi e Frosinone. Ora qualche istante di pausa, poi ci ritroviamo qui a Olimpia, la città dello sport. Olimpia, miti e verità dello sport. Un argento e un bronzo mondiale all'aperto, un argento iridato indoor, un oro e un argento agli europei indoor, il record italiano all'aperto con 2 metri e 3 centimetri e indoor con 2 metri e 4. Ma soprattutto tante emozioni vissute e regalate a testa in su, saltando un'asticella che prima di lei solo la leggendaria Sara Simeoni era riuscita a saltare con la stessa classe e lo stesso talento. A 37 anni Antonietta Di Martino di Cava dei Tirreni ha chiuso la sua straordinaria carriera che ne ha fatto uno degli emblemi dell'atletica leggera italiana. E allora oggi a Olimpia vogliamo renderle omaggio, ripercorrendo proprio la sua parabola sportiva. Antonietta Di Martino, benvenuta e grazie per essere oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Buonasera. Ciao a tutti. Allora Antonietta, t'ho visto parecchio commossa al recente Golden Gala di Roma nell'annunciare il tuo ritiro dalle pedane. A distanza di qualche tempo c'è ancora qualche lacrima da spendere? No, nessuna lacrima. È successo che comunque era anche giusto che mi emozionasse. Anche, non so, sono passati tanti anni, 25 anni di carriera, era anche giusto che versassi qualche lacrimuccia. Tu, tra l'altro, parlando subito di tecnica, detieni un record davvero particolare. Sei alta solo 169 centimetri e hai saltato fino a 2 metri e 04, un differenziale impressionante, eh? Sì, è un record, ci sono dei parametri che sono riscontrati nei vari atleti tra altezza dell'atleta e l'altezza saltata, la misura saltata. Per me sono 35 centimetri per quanto mi riguarda ed è, diciamo, una piccola soddisfazione perché al mondo, nelle donne, mai nessuno è riuscito ad raggiungere questo risultato ed è per me una grande soddisfazione ovviamente. Grande soddisfazione anche nel competere con le più forti campionesse della specialità. Ci vuoi ricordare i nomi di quelle che sono state le tue principali avversarie? Sicuramente proprio in primis la Vlasic. Blanca è stata una delle mie più acerrime nemiche in campo, perché comunque lei, almeno nel periodo in cui gareggiavo sempre io, lei era sempre presente in tutte le gare, quasi tutte le gare, e ovviamente c'era uno scontro diretto tra me e lei soprattutto. Poi vabbè, ovviamente Anna Cicerova, Tia Ellebaut, che si è ritirata anche lei, la Howard, l'americana, la spagnola che ha vinto il Golden Gala, Ruth Betia. Però diciamo che il trio che dovevo sempre battere erano la Vlasic, Cicerova e Ellebaut. Erano loro le tre più forti. Voglio farti sentire, Antonietta, qualcosa che ti ricorderà una serata davvero speciale nel giugno del 2007. Ultimo tentativo per il primato italiano da migliorare nel salto in alto 2.02. Di recente è tornata in pedana anche Antonella Bevilacqua, che ha qualche annetto ma ancora continua a saltare, ha saltato un 83. Un'altra, la prima atleta a provare a scalzare dal record italiano. Sì! 2.02! Fantastico! 2.02! Dicevo che il serbatoio della concentrazione sembrava essere venuto meno. No! Non fate i conti con Antonietta Di Martino! fantastico, che soddisfazione per lei, che cara Sara, ci dispiace, fai parte della storia, rimarrà sempre nella storia Sara Simeoni col suo 2-0-1, due volte record del mondo allora. Quel magico 78, prima a Brescia e poi a Praga, e adesso Antonietta Di Martino ha deciso di fare virgola e a capo. Non si può dire punto e a capo perché non si mette mai un punto dietro a Sara Simeoni. È la notte in cui battesti il primato italiano di Sara Simeoni. Ecco, ricordi lo stato d'animo di quella sera? Ma io diciamo che ero avvantaggiata, io non dentro di me sapevo di essere brava, ma al record di Sara Simeoni non ci pensavo proprio. Quando mi sono trovata a Torino quella sera a provare il 2-0-2, io in quel momento pensavo alla misura, ma non al fatto che fosse poi il record italiano, che avessi battuto un record vecchio di tanti anni e che era tra l'altro di un atleta che io ho sempre stimato, che era Sara Simeoni. Questo diciamo che è stato un mio vantaggio, perché l'ho affrontato con leggerezza. E poi sono riuscita poi a saltarlo quella sera e ho superato per la prima volta i 2-0-2. C'è un'altra pedana, un altro salto in quel magico 2007 che credo sia ben vivo nella tua memoria. Eccola Antonietta Di Martino, questi sono campioni signori, ne avremo pochi ma sono campionissimi. Eguaglia il suo primato italiano e quando serve in una finale di campionato del mondo, record italiano eguagliato, che straordinaria questa donna. Antonietta Di Martino e medaglia d'argento, a pari merito con lei, con Anna Cicerova. Argento mondiale ai mondiali di Osaka in Giappone, sempre come dicevamo nel 2007. Ecco Antonietta, qual è stata la tua medaglia più bella? Cioè all'aperto Osaka, perché comunque è stata la mia prima medaglia all'aperto, quella là che comunque ha avuto più risonanza, diciamo, e l'ho sempre sentita più mia. Per quanto riguarda l'indoor come diciamo anche realizzazione di un sogno, è stata la medaglia d'oro a Parigi, dove ho sentito l'inno, dove comunque ero primatista mondiale con 2-0-4, ho vinto tutti i meeting a cui avevo partecipato, è stata comunque una stagione indoor molto bella. Poi devo dire la verità, poi a maggio mi feci male, stavo benissimo. E lì d'estate sarebbe stato anche possibile un record italiano all'aperto, però poi non ci fu perché sono riuscito a fare poche gare, perché poi mi feci male e rientrai direttamente per i mondiali di Daegu. E proprio lì, in Corea del Sud, ecco un'altra splendida impresa. Concentriamoci su questo salto perché ci si gioca tantissimo, può valere il podio, forse Antonietta Di Martino sul podio ci finirà comunque perché attualmente è in terza posizione, ma dobbiamo sperare che l'azzurra riesca a farlo questi due metri come l'ha fatto altre volte in carriera, tante altre volte salendo fino sopra quota 2 metri e 0,4, e forza Antonietta, parte la rincorsa, va su, tentativo Antonietta Di Martino, medaglia. E andiamo, medaglia, è a medaglia probabilmente Antonietta Di Martino, brava. Grazie soprattutto a quei tre salti fatti al primo tentativo, 1,89, 1,93, 1,97. Un'altra grande medaglia mondiale, un bellissimo bronzo in questo caso. Se invece c'è un rimpianto nella tua carriera, immagino sia quello di non aver mai raggiunto il podio olimpico nelle tre occasioni che hai avuto. Sì, Pechino è andata malissimo, Londra poi mi sono operata, anche Atene io dovevo disputare anche Atene e fui operata alla caviglia. Diciamo che le Olimpiadi non sono state proprio fortunate per me. Sì, ovviamente manca nel mio palmarès le medaglie olimpiche, però ci ho pensato tante volte, ma mi rendo conto che alla fine doveva andare così. Ho avuto tante soddisfazioni e spesso nelle carriere degli atleti ci sono delle cose che non sono riuscita a fare. E per me riguardano le medaglie olimpiche, ma non ho, devo dire, nessun rimpianto da questo punto di vista. Sono convinta che le cose succedano sempre per un motivo e per questo non ho rimpianti. Ecco, ti chiedo ancora, forse i cinque cerchi ti mettevano sulle spalle una pressione particolare? Ma non lo so, Pechino diciamo che fu più una... ero anche io sicuramente, perché spesso e volentieri si tende a dare sempre la colpa o solo agli atleti o solo ai tecnici. In quel momento era diciamo una colpa di a metà, che poi un po' fu scaricato un po' tutta su di me alla fine. E, vedendo che comunque non ero in formissima quell'anno, forse avrei voluto l'appoggio un po' più forte di chi mi stava vicino, un appoggio migliore. In quel momento non ci fu e io crollai poi alle Olimpiadi e si vide, perché poi arrivai decima con un 1,93. E poi Londra, ovviamente. Londra è stata forse un po' peggio, perché a Londra stavo bene ed è stato proprio un caso che poi io mi sia fatta male, perché stavo bene, forse perché stavo troppo bene mi sono fatta male. E basta, poi non ci ho più pensato, perché alla fine poi è passata, mi ha ferito in quel momento, in quel periodo, poi dopo anzi mi ha reso più forte caratterialmente poi il fatto di non essere andata alle Olimpiadi, di comunque aver dovuto per forza comunque accettare quella situazione, mi ha reso molto più forte caratterialmente. Ora, Antonietta, però è tempo di guardare al futuro. Resterai nel mondo dell'atletica? In questo momento mi sto un po' rilassando, mi sto godendo un po' la mia vita normale, che sono tanti anni non vivevo. Avevo sempre quella, mi sono allenata fino al mese scorso, perciò che ero sempre a regime fino al mese scorso. Ora mi godo un po' più la mia libertà, così. Ovviamente in futuro vediamo, per prima cosa sicuramente andrò a lavorare per la Guardia di Finanza, andrò a lavorare per il corpo della Guardia di Finanza e vediamo che cosa, se ci saranno, delle proposte, non lo so, è ancora tutto un po' campato in aria, vediamo cosa succede. Antonietta Di Martino, un grande in bocca al lupo allora, e grazie per essere stata ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi tutti. Anche per l'appuntamento con Olimpia di oggi è tutto, un grazie ad Andrea Roccabella in regia, vi ricordo che potete riascoltarci in podcast dalla nostra pagina web sul sito radio24.it e scriverci alla mail olimpia@radio24.it. Ora spazio come d'abitudine a tutti i convocati weekend, Olimpia torna come sempre domenica prossima alle 16:30. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.